qui in questa emittente. 0649 1750 è il contatto telefonico, www.ondarossa.info, anche per usare il nostro streaming, già vedo abbastanza frequentato. Ricordo ancora una volta il radio abbonamento. Dopo, diciamo, la positività dell'anno scorso, ripetiamo questo esperimento: 30 euro per 1000 ascoltatori per questa realtà assolutamente autogestita. E quindi si può andare sul sito della radio, cliccare sul banner specifico e studiare le modalità di adesione. Saluto Maya dalla Sardegna, Antonio Zoviet da Firenze, qui da Roma il geniale Eloquence Recycle, Manu Fais, ossia Pioggia d'Ambra. Lucia qui da Roma. Nicola Locci, in quel della Sardegna, lo ricordiamo come Stigmate. Polonia, con la Polonia iniziamo, e quindi Contemplatron, che abbiamo tanto apprezzato in queste settimane. Concludiamo la carrellata che riguarda Antarabava The Six Realms con gli ultimi due brani che vanno a concludere quello che fu il primo lavoro per questo progetto polacco. E quindi ci ascoltiamo What Fuel Jealousy e Lazy Pride. Ricordo Contemplatron che si rifanno, diciamo, artisticamente anche all'esperienza del buddismo tibetano, soprattutto ispirati dal libro tibetano dei morti. E quindi sonorità etniche e molto molto dilatate. Benissimo, dunque gli ultimi due brani appartenenti a Contemplatron, questo progetto polacco, estratti da Antarabava e The Six Realms, questo primo lavoro di molti anni fa, esattamente del 2005. Progetto attualmente con Jaroslav Vierny e Dominika Monasniek. Dominika Gornjasniak, che salutiamo. Come salutiamo, e se ne sono aggiunti molti altri di fedeli ascoltatori, Fulvio Biondo di Solar Lodge, il buon Raffaele Pezzella della Nesplay Sounds Label, Like Wake, altro valente musicista qui di Roma, Doriane in quel di Taranto, Jean-Claude Bertot invece in Val d'Aosta. Un saluto anche a Massimo Oders Mascheroni di Oders, più avanti ascolteremo un qualcosina. Vengono scomodati dei paragoni con illustri personaggi nel caso di Contemplatron, ossia Biosphere, Death Prod, Rise on Death. Ci sono anche, secondo me, effettivamente di questa influenza, ma il tutto è permeato e dirottato verso valenze più etniche, per scelta anche culturale di Contemplatron. Ricordiamo questo album che si ispirava al libro tibetano dei morti. Un saluto anche a Lupsi, Lucia Cagliazza da Udine, il medico della peste qui da Roma. E dalla Polonia arriviamo proprio qui in Italia e ce ne andiamo dalle parti di Chemical Resistance di Cristiano Bocci e Adriano Magliocco, un duo molto interessante che si muove anch'esso tra dark ambient ma anche atmosfere di psichedelia e doom metal. E credo che questo My Low Heart sia proprio l'esordio, non vorrei sbagliare, e consiglio caldamente di andarsi un po' a visitare la loro pagina Bandcamp, dove chiaramente si può anche sentire questo lavoro. E da questo lavoro questa sera estraiamo proprio il brano omonimo My Low Heart. Cristiano Bocci e Adriano Magliocco a formare questi Chemical Resistance che si muovono tra Toscana e Liguria. I manipolatori naturalmente elettronici, ma anche basso, sintetizzatore e chitarra. È un album che trasuda psichedelia cosmica, ma anche, come ho già detto, doom e dark ambient. Interessante questo Milo Heart. Anche questa sera avremo parecchio materiale italiano. E adesso rimaniamo in Toscana per certi aspetti. Lo facciamo con il buon Gianluca Becuzzi, che salutiamo, come salutiamo Maria D'Agostini, entrambi qui da Roma, come vado a salutare 25 O'Clock, ritornato tra noi e che trasmetterà intorno alle 22:30. Ora lo vedo al di là del vetro. Tornando a Gianluca Becuzzi, uno degli esponenti più interessanti della sperimentazione italiana, ma non solo, ha avuto un 2019 particolarmente attivo, un vero e proprio stacanovista con 4 lavori, 3 album di base spoken word e questo The Bunker Years, che riprende e ritira fuori delle vecchie tracce uscite su compilation o mai stampate altrove. Materiale che va dal 2006 al 2014. Questa sera è il turno di Time Space Obsolescence ABC, qui riproposta in una versione unica. Time Space del 2006, Obsolescence del 2012, come del 2012 Requiem for Jean Baudrillard. Anche questa è una traccia riproposta, tracce ormai difficilmente trovabili in giro. Eccolo qua dunque Gianluca Becuzzi. Ancora Gianluca Becuzzi da questo The Bunker Here. Ci stiamo ascoltando tre tracce, questa è la terza che ho scelto per questa sera, questa Requiem for Jean Baudrillard. Lavoro di alto lignaggio, questo di Gianluca Becuzzi. The Bunker Here, 2006-2014, appunto un materiale che è stato recuperato e assemblato in questo ultimo lavoro, che considero uno dei migliori del 2019 e che consiglio caldamente. Materiale vecchio, ma in parte anche mai messo su disco, e che è passato precedentemente attraverso etichette storiche come la Santos, la Radical Matter, la Butcher House Production. E Becuzzi ha avuto l'intuizione appunto di recuperare questo materiale e metterlo su questo lavoro, appunto uscito sul finire del 2019. Salutiamo Becuzzi e salutiamo anche Maria, che della quale leggo una definizione che si adatta benissimo a queste splendide sonorità, ossia abissi psichici insondabili e riti di sangue. C'è dello studio, della ottima sperimentazione, ma d'altronde Becuzzi sono anni e anni che calca le scene, non mostrando mai la corda, ma anzi alla ricerca sempre di nuove soluzioni. Ancora Italia, precisamente qui a Roma, altro pezzo di storia, Macelleria Mobile di Mezzanotte. E di loro andiamo a sentire un album uscito attraverso la Subsound Records, uscito anche questo sul finire dell'anno scorso, si chiama Noir Jazz Fandom. Però a differenza di album precedenti, la presenza del morboso jazz tipico di questo progetto rimane un po' sullo sfondo, per lasciare spazio a una formula interessantissima e comunque di dark molto ambientale e rarefatto. Ci ascoltiamo That Was Last to Enter the Nightclub e Devotion, che vede anche la partecipazione di Paolo Bandera. Intanto andiamo a salutare una new entry qui a Prove Tecniche, Camper Ruggero, che credo stia dietro alla Formaldehyde Records, etichetta che abbiamo conosciuto con Viva la Repubblica, un compendio che forse ascolteremo più tardi. Un saluto dunque a Camper. Thank you. Molto tempo è passato dagli esordi di Macelleria Mobile di Mezzanotte. Ricordiamo un nome che nasce come ideale, diciamo, soprannome della metropolitana di New York, dove intorno alla mezzanotte in poi succede veramente di tutto, e quindi Macelleria Mobile. Ricordiamo gli esordi con Marco Bergamo, Il profilo ottimale delle ferite, un bellissimo album del 2002, e tanti tanti lavori, tutti di ottimo livello. Fino a questo Noir Jazz Fedom del 2019. Lorenzo Macinanti, Adriano Vincenti alla voce, Riccardo Chiaretti, conosciuto anche come Chaos Order tanti anni fa. Ma anche il sax di Pierluigi Ferro. Un album, come ho già detto, dove il profilo jazz viene leggermente meno, ma rimane in qualche modo quell'impronta che lo fa distinguere da altri nomi. Intanto salutiamo Erz Isetual da Milano, Eloquence Recycle, lo risalutiamo al lavoro e ci sta anche ascoltando, speriamo anche di ispirarlo in qualche modo, e confermo la valenza di Kemper Ruggero, infatti l'avevamo mandato anche in passato come Tanatofobia e No Joy.